del vino, calda la testa, o della festa patronal. Se tu in piazza qualche ragazza, ecco che quella cerca venar, ecco che quella cerca venar, cerca venar, cerca venar. Senza con ordine la razzia, il minuetto, la follia, la levanna, fare ballar, il minuetto, fare ballar, la follia, fare ballar, la levanna, fare ballar. E più soltanto dall'altro canto, con questa quella, povoleggiar, povoleggiar, povoleggiar. Alle melista, dopo la fina, una regina deve aventar. Alle melista, una regina deve aventar. Se tu in piazza qualche ragazza, dico quella per camminar. Levelista, con mamatino, una regina deve aventar. Senza il cuore della nazia, il minuetto, la follia, la levanna, fare ballar. Levelista, con mamatino, una regina deve aventar. Una regina deve aventar. Una regina deve aventar. Deve aventar. Deve aventar. Deve aventar.